Esercizio 3. Ascolta le frasi facendo attenzione alla pronuncia della L e della doppia L. 1. Si è comportato in maniera vile. In questa zona ci sono molte belle ville. 2. Questo quadro vale una fortuna. Questa valle è molto fertile. 3. Per questo lavoro serve una pala meccanica. Non si deve giocare a palla per strada. 4. Ho un molare cariato. Non posso mollare proprio ora il mio progetto. 5. Questi sbagli sono causati da un calo di attenzione. Alle sue bugie, ormai ci ho fatto il callo. 6. Una stele è una lastra di marmo con dedica a divinità o imperatore. Osservare le stelle è uno spettacolo affascinante e sempre nuovo.